C'è qualcosa di affascinante nella segreteria telefonica di ultimo modello che la tele con bontà sua mi ha assegnato in via provvisoria in attesa che la mia apparecchiatura titolare, vittima di un qualche incomprensibile disastro elettronico, sia debitamente riparata e riconsegnata. È qualcosa di affascinante, e non perché, come mi assicura l'opuscolo di presentazione, sia elegante e raffinata come le migliori creazioni del design di non ricordo più chi, nonché facilmente armonizzabile con ogni ambiente familiare di lavoro, nonché versatile perché può svolgere tutte le funzioni delle segreterie professionali, affidabile perché costruita con l'impiego delle tecnologie digitali e semplicissima come si richiede un prodotto destinato a una vasta clientela. Queste sono soltanto ovvietà, millanterie pubblicitarie del tutto fuori luogo, tra l'altro in un testo destinato a chi comunque su quell'apparecchio in un modo o l'altro ha già messo le mani. E quello che veramente mi affascina è il fatto che la mia nuova segreteria sa parlare. Non si limita a riportare le parole altrui, come preciso dovere di tutte le sue simili. No, parla di suo. Io arrivo in casa, vedo che il display rosso lampeggia, segnalandomi in cifra il numero dei messaggi ricevuti, diciamo che sono 6, premo il tasto di ascolto e invece della voce registrata del primo interlocutore me ne giunge all'orecchio un'altra, una voce flautata e vagamente sensuale, alcunché irrimediabilmente meccanica nell'articolazione delle parole, che ha la gentilezza di comunicarmi che mi sono arrivati appunto numero 6 messaggi. E dopo che tutti e 6 mi sono stati debitamente recitati, ciascuno preceduto dall'ora esatta di registrazione, che è una bella comodità, lo ammetto, la stessa voce mi comunica che non ce ne sono più, aggiungendo un sintetico fine messaggi. Affascinante. E soltanto dopo che l'utente, ha espresso il dovuto compiacimento di fronte alle raffinatezze della tecnologia moderna, e soltanto allora comincia a insorgere qualche dubbio. Ma perché mai l'apparecchio aveva sentito il bisogno di annunciarmi che i messaggi erano finiti? Non lo potevo capire da solo. In fondo, sapevo che i messaggi erano 6. 6 ne ho ascoltati, è ovvio che non ce ne fossero altri. Evidentemente il meccanismo suppone che io non sappia contare. Che è scortese. E comunque nessuno gli ha dato il diritto di farlo. E adesso che ci penso, che bisogno c'era che mi annunciassi a voce in apertura che i messaggi da ascoltare erano 6? Lo sapevo già da quando avevo visto lampeggiare sul display a caratteri luminosi la cifra 6. Oltre che impossibilitato a contare, evidentemente quell'affare mi suppone incapace di leggere. Per un momento mi sono trastullato con l'idea che l'apparecchio fosse stato programmato in tal modo a vantaggio di eventuali utenti non vedenti, ma è un'ipotesi che non regge, lo escludono l'impostazione della tastiera e la presenza del display. Quella segreteria è stata studiata nella prospettiva di un impiego da parte di un'utenza di analfabeti incapace di contare fino a 6. Naturalmente anche questa ipotesi a livello socio-economico non regge. La percentuale di analfabeti in Italia non è così insignificante come si crede normalmente. Al censimento del 91 corrispondevano al 2,1% della popolazione superiore ai 6 anni d'età. Però non è tale da giustificare una produzione di meccanismi elettronici dedicati a loro. Sarei abbastanza sicuro che i programmatori della Telecom non abbiano avuto alcun dubbio che gli acquirenti del loro prodotto fossero in grado di leggere a prima vista il numero dei messaggi pervenuti e di rendersi conto di quando erano esauriti. Hanno aggiunto la specificazione vocale nella perfetta consapevolezza che fosse del tutto inutile. Inutile ma non priva di valore, che basta sfogliare il listino della Telecom per scoprire che le segreterie senza messaggio vocale costano molto meno. E come a dire che il prezzo dell'oggetto non dipende dalla sua maggiore o minore utilizzabilità. La funzione in più è assolutamente inutile all'acquirente, ma è preziosa per il venditore che in base alla sua presenza può liberamente aumentare il prezzo. È una specie di variante tecnologica del vecchio principio della feticizzazione delle merci, no? Sapete, quello per cui nel tipo di società in cui viviamo il valore di scambio fa irrimediabilmente agio sul valore d'uso. Ma lasciamo perdere, perché anche a questi microfoni gingillarsi con formule di origine marxista non sta bene, non si sa mai cosa può capitare, e facciamo un'altra osservazione piuttosto. La mia nuova segreteria telefonica, nella sua perfezione tecnologica, non dispone di una funzione che alle sue antiquate colleghe non mancava. non prevede la possibilità di programmare il numero di squilli dopo i quali si inserisce la risposta automatica. La voce registrata che avverte che non c'è nessuno in casa e prega di lasciare un messaggio subentra a metà del secondo squillo, rendendo praticamente impossibile sollevare la cornetta prima. Poco male, d'accordo, direte voi, poco male, ma con i vecchi modelli, con il mio vecchio modello almeno, l'utente aveva davanti a sé due opzioni ben precise, insomma, poteva decidere di accettare tutte le telefonate che gli arrivavano alzando la cornetta allo squillo, o aspettare il messaggio per decidere se rispondere o no, utilizzando quello che i costruttori chiamano pudicamente la funzione filtro, no? Che non è mica una cosa da poco, eh? Erano, se vogliamo, due atteggiamenti esistenziali. Uno avventuroso e disponibile di chi è disposto a mettersi in comunicazione con chiunque, nonostante il pericolo rappresentato dall'alta percentuale di rompicoglioni in libertà sul territorio, e uno prudente e cauteloso, di chi non vuole entrare in contatto altro che con persone di cui abbia provato l'affidabilità. Io non starò a chiedervi se uno dei due atteggiamenti è preferibile all'altro o perché, e ciascuno è assolutamente libero di avere le sue idee in merito. Mi limiterò a farvi notare che l'odioso oggettino, quello che vi considera analfabeti e incapace di contare, ha già deciso per voi.